Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Voi mi chiederete come faccio a capire che ho davanti a me una donna in cerca. Sicuramente una donna che sta cercando qualcuno. Voi direte, sei sicuramente oppresso da un profondo pregiudizio maschilista, in cerca di chi? No, una donna che tutto sembra cercare, meno che un uomo per sé, è una donna che sta cercando qualcuno, e colui che lei cerca continuamente lo guarda e lo riguarda su una vecchia fotografia, oramai ingiallita dal tempo. Più che una donna che cerca il suo amore, sembra una mamma che cerca il suo figlio, e in effetti pare che la sua storia nasca proprio da quello, da un figlio che una madre ricerca. Quando è stato l'inizio? L'inizio è stato quando mio figlio, finito l'università nel 2003, ha detto di andare, che voleva andare a fare il suo anno sabbatico in giro per il mondo. Così è stato, però poi queste telefonate sono state sempre più diradate nel tempo, finché dopo un anno circa mi dice: guarda, voglio rompere il cordone ombelicale e quando mi sento mi farò vivo io. Ma lei nel frattempo sapeva dove stava suo figlio quando è andata a fare questo anno sabbatico? Non sapevo che era in giro, sì, era stato un po' a Londra, un po' in Canada, un po'... Cioè girava il mondo, faceva un bel viaggio? Sì, direi di sì, per i suoi interessi, per i suoi interessi. E che interessi aveva? Ma perché lui si è laureato e aveva mille interessi, guardi, mille interessi. Ma a parte che era un mago del computer, perché suo padre era bravissimo, e faccio per dire, il go-kart, ha fatto il paracadutismo, era istruttore di nuoto. Quindi uno sportivo, una persona, sì, secchione soltanto. No, proprio no, guardi, anzi avrebbe laureato ancora prima e no, questo no. Quindi un bravo ragazzo, certo, al 100%. È proprio così, me lo invidiavano tutti. E con voi, bello, bravo. Con lei aveva un buon rapporto, aveva? Così pensavo. E in effetti, poi ritrovandomi tutta un'altra persona, ho capito. Avevate ottimi rapporti fino a che non è andato a fare questo viaggio sabbatico. Quanti anni aveva quando è partito? 22. 22 anni. Quindi anche giovane, laureato molto presto. Molto in gamba mio figlio, sì, guardi, era un adulto fin da piccolo, forse troppo. Ma in questo il padre era presente in tutta questa vicenda? Sì, gli ultimi anni io ero separata, ma però Michele aveva già 17 anni. Ma poi una situazione abbastanza normale ormai. Ma poi tranquilla, senza litigi, senza niente, guardi. Vabbè, consensuale. Sapevamo... Come? Consensuale, eravate d'accordo che la storia era finita, ma non è un trauma così grosso. Poi a 17, anche secondo me, a 17 anni, secondo poi ormai me. Uno lo elabora, il modo di elaborarlo, mi sembra. Certamente. Quindi non è quella la ragione per cui suo figlio è scomparso. Quindi suo figlio a un certo punto parte per questo anno sabbatico. Sì. Mentre stava fuori, ma le mandava messaggi, email, telefonate? Sì, qualche telefonata. Non ricordo se io avevo già il cellulare allora, perché parliamo del 2003. Quindi tanti anni che non lo vede più. Sì, sono 14, a maggio sono 14 anni. 14 anni. E alla fine di questo anno le dice: non voglio più tornare perché no, voglio staccare il cordone. No, dice: guarda, sì, mi faccio un po' vivo io, devo rompere il cordone ombelicale e così. E io dico: certo, ci sta pure, ci sta pure. Ci sta pure, ci mancherebbe. E solo che pensi che un minimo di contatto poi... Comunque l'ha interrotto davvero il cordone, non si è più fatto vivo. L'ha interrotto davvero, guardi. Non si è più forse fatto sono vivo. Io che faccio fatica a tagliarlo del tutto. Non si è più fatto vivo. Fino al 2008, nessuno ha avuto più notizie di lui. Cioè 5 anni di buio totale. 5 anni di buio totale. E io avevo ricevuto qualche cosa, tipo un CUD, l'avevo cercato, guardi, in quegli anni ho cercato con quel poco che avevo di fare delle ricerche, ma capisce, io non volevo neanche essere così invasiva. Ma lei ha mai denunciato alla polizia che è scomparso? Assolutamente no, perché non si tratta di una scomparsa. Beh, 5 anni che non sa, e se le arriva il CUD non sa come consegnarglielo? Non è più reperibile. Ah, niente, guardi, era addirittura da Roma uno, e quindi io sono andata là e creda, ogni volta che ho avuto qualche piccola traccia. Quindi lui aveva preso la residenza a Roma? No, no, assolutamente e no. E se il CUD le veniva? Ah, un CUD di un lavoro. A me, dove ha la residenza qui, residenza qui, certamente, il CUD viene mandato lì. Poi basta, non ha avuto più nessuna traccia. Lei dopo un anno, 2 anni che non lo sentiva più, cosa ha fatto? E allora, i primi anni non potevo fare niente perché brancolavo proprio nel buio. E come ha detto lei prima, dice, ma lei ha fatto denuncia? No, perché primo, mio figlio è grande, secondo, l'ha detto, e terzo, io sono un po', come posso dire, mi sentivo di dovere un po' rispettare questa sua scelta drastica. Però un essere umano che scompare totalmente, potrebbe essergli anche successo qualcosa. Certamente, non si è posto, può essere stato rapito, un incidente, ricattato, adesso dico le cose peggiori, finito certo. In una setta, non lo so, mille no, cose. No, non ho pensato a queste cose negative, non so perché non ho pensato a cose negative, forse proprio perché conoscevo mio figlio, non so come dire, sempre avuto piena fiducia nelle sue capacità. Non sì, tanto. Ma se non avete litigato, non c'era stato un trauma forte che giustificava una persona che scompare. Una scomparsa così, dice, ogni tanto, non so, dico, ma almeno un SMS all'anno, non lo so, esatto. Per dir sono vivo. E invece, per caso, io l'ho incontrato in città, e così, proprio per caso, e quindi abbiamo parlato. Quindi è rimasto in zona, non è che sarà allontanato molto. Non lo so in questi 5 anni dove è stato, io l'ho incontrato poi in città. Per puro caso? Per puro caso. E come è avvenuto l'incontro? L'incontro è stato per me molto drammatico, logicamente, perché lui, con tutta la sua calma, così, come posso dire, e sicurezza di quello che aveva fatto. Ma com'era vestito? Vestito da persona indigente? No, tutto a posto. No, quindi faceva una vita normale, non faceva il barbone sotto un ponte, ecco. Che sappia io assolutamente. Sarebbe visto, quindi certamente, questo dovrebbe tranquillizzarla, certo. Che aveva una vita normale, si manteneva perché sarà. E lui ha detto questo, ha detto che lui non si sentiva di aver vissuto come veramente era e che quindi adesso voleva fare la sua vita e non avere più niente a che fare con noi. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Hai mai controllato se aveva un profilo Facebook, queste cose che hanno tutti? Assolutamente no. Quindi non l'ha, cioè assolutamente non ce l'ha. Ma strano, però uno che molto sa usare i computer così non ha nemmeno un profilo Facebook, nemmeno un'attività commerciale, un ufficio, uno studio, niente. Ma può darsi che lui, visto che è così in gamba, abbia modo di avere quello che gli serve, ma non per essere rintracciato. Ma oggi qualsiasi lavoro che noi facciamo. Come presupposto in qualche maniera siamo visibili. Ma lei ha provato mai a cercare il suo nome su un motore di ricerca? Ho fatto certamente, ma non... Non dava nulla? Dopo un po' di anni, mi sono rivolta anche a un'agenzia investigativa. Ah, ecco. E la signora, così dopo un po' che mi ha ascoltato, mi ha detto, signora, guardi, io le ruberei i soldi. Più di quello che ha fatto lei non saprei cosa fare. E solo che ogni volta che trovavo una traccia, la traccia scompariva, non era più stato lì, non c'era più recapito lì. Guardi, le cose sono due, o è entrato nei servizi segreti, quindi il suo mestiere è quello, quindi non vuole... Non credo proprio, perché adesso lei non sa il seguito della storia, per quello mi dice. No, ma intanto voglio sapere questi primi 5 anni, ma lei che altri tentativi ha fatto? Niente, così, ha chiesto in giro, non aveva amici comuni? Certamente. E cosa dicono gli amici? Nessuno ha tolto email, ha tolto cellulare. Quindi si è cancellato dal mondo, questo è poco, sì, ma sicuro. Sì, proprio. E quando l'ha visto era diverso come viso, come volto? Assolutamente no, sembrava mio figlio uscito di casa il giorno prima. Le dirò, persino un po' più sereno nello sguardo, non so come dire, l'ho visto veramente bene mio figlio. Forse aveva proprio bisogno di allontanarsi dalla famiglia. Sì, è molto sicuro di quello che aveva fatto, che siccome non è uno stupido, penso che gli sarà costato coraggio. Se poi le faccio una domanda, se suo figlio avesse detto taglio il cordone, ma ogni tanto lei l'avrebbe tartassato, seguito, no, l'avrebbe lasciato in pace, penso, no? Certo, ma certo. Non è il tipo, guarda, che poi gli si attacca comunque, lo mamma segue, mia, che non fai? Vorrei, cioè, non lo vorrei certo. Quindi non era giustificabile questa cosa così, così è drastica? È giustificabile, sa, con cosa, secondo me? Sì. E la... forse la non, visto che lui ha detto che prima, negli anni precedenti, aveva vissuto male, non come si sentiva di essere in realtà, probabilmente non era ancora così sicuro di riuscire a mantenere questo distacco, capisce? Secondo me, dice, se io poi mando il messaggino, ogni tanto ricasco magari di nuovo nella... secondo lei, se lo sarà chiesto in 15 anni, cosa mai c'era di sbagliato nella vita in famiglia? Eravate oppressivi, eravate autoritari, non gli davate spazio, entravate nella sua vita privata? Assolutamente no. Ma aveva amicizie, relazioni, fidanzamenti, storie d'amore, suo figlio? Sì, due ragazze che ho conosciuto anch'io, con una sono ancora in contatto. Che non sa più nulla anche lei? No, assolutamente. Ma nessuno, proprio nessuno di persone che potessi rintracciare io, vecchi amici con quali era andato in Inghilterra, insomma le ho battute un po' tutte le strade. Comunque ci vuole arte e mestiere per fare una cosa del genere, perché oggi la burocrazia ti cercano gli uffici, cioè ogni giorno arrivano a casa tonnellate di comunicazioni, comunque che qualcuno ti cerca per qualcosa, a parte le tasse, l'INPS, certo. Previdenza, le banche, non lo so, l'università stessa. Ma vede, uno può tranquillamente prendere il domicilio altrove, dire che tutto gli venga spedito lì e a casa da me non arriva niente. Dopo il 2008, quando appunto l'ho incontrato nel 2008, e sono passati ancora mi pare 3 anni e l'ho rincontrato di nuovo, tutt'altra parte della città, di nuovo per caso. Quindi viveva in città comunque, non è che si era allontanato. La residenza ce l'aveva lì, perché due volte per caso lo incontra in città. No, la base, cioè, la residenza nel senso materiale sì. La base ce l'aveva lì comunque, la sua base era lì. Penso di sì, ma dove? In due posti completamente diversi. Vabbè, è una città. Vabbè, uno passeggia. 40 chilometri di distanza, non hai neanche un punto, diciamo, dove dire, va bene, guarda. Io mi si può incontrare a Roma in centro, mi si può incontrare in periferia, se uno lavora in una città, si sposta. Questo certo. Però lì abitava. E cosa gli ha detto la seconda volta? Erano passati quanti anni? 3 anni dopo? Dopo, sì. E sì. Cosa gli ha detto? Ha ridetto di nuovo la stessa cosa, che lui ha fatto la sua vita, che non mi vuole male, però non vuole avere niente a che fare. Ma il motivo di questa sua amarezza? Così ha detto che siamo stati due genitori che non l'hanno preparato alla vita e che lui... Avete fatto studiare? Che l'abbiamo messo su un piedistallo, troppo bello, bravo, buono, intelligente, educato. Chi vuole bene i figli non fa così. 14 anni, un calcio nel sedere, fuori a capire cos'è la vita. Glielo impedì a qualcuno di andare a fare, non so, una vacanza? Quando uno studia di solito sta a casa, mi sembra la cosa più normale, no? No, ma poi lui poteva andare ovunque. Non ha fatto viaggi durante, diciamo, il liceo, l'università? Sì, tantissimo, è andato in Inghilterra, guarda, il primo viaggio è andato in Inghilterra da solo a 12 anni. Quindi non mi sembra che una famiglia che teneva il guinzaglio. Assolutamente. Ma lo controllavate nella sua vita privata in maniera ossessiva? No. Aveva libertà di uscire con chi volesse. Ma lo credo. Guardi, era come avere a che fare con un adulto e quindi non c'era neanche bisogno di sgridarlo. Non c'è mai. Forse un po' troppo adulto. Il problema di mio figlio, secondo me, troppo adulto, troppo. Capisce? Ma scherzava, giocava, aveva amici, faceva battute. Sì. Quindi, sì, un ragazzo. Non c'è un'ombra, non c'è un'ombra nella vostra vita familiare che le faccia pensare questo è il motivo per cui se n'è andato? Beh, oddio, se io mi sono separata vuol dire che tutto rose e viole... Sì, ma non mi sembra che siano... Lei mi indichi una famiglia in cui non ci sono dissapori, esiste. Qualcuno resta assieme, qualcuno si separa, ma certo, la sostanza non cambia. Ma poi senza motivi gravi, è solo quando, sai, il rapporto un po' piano piano si logora e uno poi si domanda e dice, ma che continuiamo a fare, magari... è andata così che ci siamo separati. Ma lei si è trovata un'altra persona? No, quindi nemmeno dire mia madre si è messa con un altro uomo o mio padre. Il padre invece? È una compagna, sì. Vabbè, quella è una scelta lecita, per fortuna. Sì, ma se no che faceva? Sì. No, per fortuna. Quindi anche una madre che fra l'altro ha fatto anche una scelta molto coraggiosa, alla fine si è dedicata al figlio unicamente, non pensando a se stessa, quindi cosa le potrà mai rimproverare? Guardi, io non ho avuto neanche bisogno di dedicarmi a mio figlio, perché mio figlio era come una pianta che veniva su così bene, perfetta, da solo. Questa era, diciamo, l'esteriorità. Ma questo non significa che lui non lo sia una pianta perfetta. È solo che probabilmente per venire su, per continuare a crescere come intende lui, ha bisogno di staccarsi. Eh sì, ma questo, guardi... Cioè io, e che, mi dica, abita lì, nel posto, lì. Che senso ha? Beh, almeno sa che suo figlio ha una vita. No, non dico, ma perché sai, una cancellazione così radicale è motivata. Dopo il secondo incontro che è accaduto? Dopo il secondo incontro niente di nuovo, e l'ho rincontrato la terza volta in 14 anni, 3 anni fa, di nuovo per caso, di nuovo in tutt'altro posto. E lui ci ferma, chiacchieriamo, e del più del meno. Non esce nessuna informazione riguardo la sua vita. E ma lei ha chiesto se è sposato, ai figli, gli ha chiesto? Esattamente, che uno dice, oh, magari sono nonna, non lo so. Ma adesso lui quanti anni ha adesso? Lui adesso ha 37. 37, beh, ormai è un uomo maturo, eh. È grande, certo. Ha visto se aveva una fede o qualcosa, tanto per capire dei segni? No. Ma potrebbe avere dei figli, per esempio, questo non gliel'ha detto. Gliel'ha chiesto? No, non dice niente. Gli ha chiesto sono nonna e dei figli, lui ha detto nulla. E lui ha detto no, stai tranquilla, no. Vabbè, questo gli ha detto no. Sì. Ma potrebbe stare con un uomo e non glielo vuole dire, potrebbe essere questa vicenda. Che magari, forse solo questo, non credo. Le farebbe problemi nel caso? No, lo dico per dire tutte le ipotesi, capito? Certamente, no, assolutamente no. Cioè, nel senso che non ci sarebbe nessun problema. Cioè, non è la mamma che dice, Dio mio, non sei più mio figlio, non sarebbe ma questo. Ma per carità, guardi, io conosco tantissime persone, perché io sono buddista e nell'ambito del buddismo ci sono molte persone gay, sia uomini. Quindi non era nemmeno una famiglia che di quelle che si strappano i capelli. Quindi anche no, questo non lo dico per dire tutte le ipotesi, ma sì, che lui certo abbia fatto una scelta radicale, religiosa, ideologica, non lo so, che lo tenga lontano dalla famiglia, ci sono. Ma qual è quella religione radicale? Ci sono organizzazioni che. Ma anche nell'ambito della religione cattolica ci sono organizzazioni che a un certo punto le persone fanno una scelta radicale. Ma vuol dire che tu sei molto influenzabile dalle altre persone e non è proprio mio figlio. I figli mai vanno in altri paesi del mondo a fare volontariato, le famiglie non lo sanno. Ma lui era un ragazzo religioso, aveva diciamo una visione religiosa. No, noi non siamo stati mai credenti. Laici. Quindi, andando avanti ancora, poi cosa ha parlato col suo ex marito di questa ragazza? Certo, siamo in ottimi rapporti. E lui cosa dice? E anche lui cosa può fare? Se ne è fatto una ragione e lui non lo cerca. E non è stato mai cercato. Lui non lo c'è, quando dicevo, sai, giro di qui, giro di là, così, e mi dice lascialo stare, non lo cercare, lascialo stare, lascia che faccia la sua vita. E... Il treno va. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. In tutti questi anni è stato un po' il mio modo di voler sapere qualcosa del mio figlio. All'inizio cosa faceva? Quando proprio all'inizio, ha fatto azioni paradossali per cercare suo figlio, l'investigatrice privata è andato in giro a cercarlo, oppure no? Ho fatto anche un po' di questo, sì, perché lui aveva detto di non cercarlo. E quindi quando io giravo per la città ho fatto un periodo che mi travestivo da araba. Si travestiva da araba? Come? Sì. Smetteva il velo? Sì, prendevo il treno, arrivavo fino poco prima della stazione in città con i miei vestiti normali e poi tiravo fuori una giacca, sa un po' come hanno queste donne, sì, un po' sul beige, un po' però smetteva largo, un foulard in testa. Un foulardino in testa, sì sì, e le dirò una volta o due che l'ho fatto ancora prima di scendere dal treno, un bel po' di tempo prima, una mattina presto, e il bigliettaio non mi ha neanche chiesto il biglietto, l'ha chiesto gli altri, ma no, non so perché. Dava per scontato che lei non avrebbe fatto il biglietto. Ma non lo so, non lo so. E poi vestita così, diciamo, da donna orientale, andava in giro per la città a cercare suo figlio. Sì. Ma seguendo quali tracce? Seguendo un po' le tracce dell'università, della zona dell'università, un po' per il centro, perché. Sì, però è da disperati cercarlo così, come fosse un ago nel pagliaio. Perché non ha scelto mai sistemi? Cioè, una chiacchierata con un poliziotto, con un carabiniere, perché non se l'è mai fatta? Perché ti dicono che loro possono fare la ricerca solo a fronte di una denuncia, e di una denuncia a disparizione. E quindi io non mi sento di fare denuncia a disparizione. È una bugia. È semplicemente un figlio che non la vuol vedere, gli ha detto chiaramente. Bravo. Quindi non, vista sì, così sarebbe un atto di violenza, me ne rendo conto. Infatti. Sarebbe un atto di violenza, vista. E poi acquisirei solo dei dati materiali che mi possono fare stare tranquilla, diciamo, al limite. No, sì, guarda, lavora lì, abita là. Ma dall'oggi a domani tutto può cambiare. Ma aveva un conto in banca, che lei sappia, suo figlio, quando è ancora a casa con voi? Sì. Essendo maggiorenne, lei non c'entrava. Certamente, sì, sì, ma estinto già da quel dì. Comunque, tiriamo delle conclusioni. Dell'identità così radicale presuppone un lavoro che implica segretezza, quindi probabilmente lavora in qualche servizio, in qualche posto molto. Perché sennò non. Oh, beh, contento lui, cioè no, io. Non lo giustifico. È una cosa da film, quando uno entra nei servizi segreti scompare, sì, in questa vero, maniera. Sì, è classico, la legione straniera di una volta, c'è ancora forse. Sì, ma la legione straniera no, però non mi sembra il tipo che va a combattere. No, però potrebbe avere dei ruoli molto importanti, essendo un bravo informatico, in un apparato dei servizi che richiede grande segretezza, o in un'azienda che richiede grande segretezza. Non ho idea. Comunque sia, è stato bravo. Comunque sì, è stato bravo, infatti, si guardi. Mi ricordo che mi diceva, ma poi non sono mica neanche così intelligente, sai. Ho fatto i test del quoziente così, diceva, ho due punti sotto quello di Einstein. Ho detto, vabbè, per fortuna. Beh, un giorno lo vedrà probabilmente in una lista di premi Nobel, magari. Magari, guardi, magari. Però una cosa, io voglio solo che sia felice. Una cosa sola non mi convince, ma sua figlia mi ha dato segni di problemi neurologici, non lo so, qualcosa del genere, no, mi sembra? Assolutamente no. Quindi manco dire ha avuto un momento di depressione. Ah, dice, io non so cosa sia avvenuto in questi anni, diciamo. No, ma prima, il momento, perché lì c'è stato un momento scatenante, una decisione scatenante. Così radicalmente poi. Non so se è stato così un momento, magari. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, ma può darsi che lui se lo sia pianificata invece. Ah, che era tutto pianificato. Nella sua razionalità dice, io mi laureo, appena laureato dico vado a fare un viaggio, poi dico taglio il cordone, era tutto pianificato, aveva già un bellissimo lavoro, era stato arruolato magari dalla Spectre e già stava lavorando, può essere magari, non lo so. Assolutamente. Ma lui a casa ha lasciato un suo computer quando è partito? No, nemmeno. Sì, sì, sì, no, qui in casa era rimasto ancora, sai, quelli un po' più vecchiotti, aveva il suo, è vero, è vero. Ma tutti i vestiti, tutte le sue cose che aveva a casa, ha lasciato tutto qua, lì. Non ci crederà, dopo tanto tempo che tenevo queste belle cose, ho avuto l'occasione di regalarle proprio l'altra settimana e sto svuotando un po'. Cioè un taglio radicale, uno non si porta via nemmeno, cioè, penso a me stesso, non tanto, ma almeno una scatola di cose che vorrei portare dietro ce l'ho. Poche cose, ma fatto ma l'avrà fatto questo. Chissà nelle valigie dei viaggi, chissà che cosa. Ma quando è andato via di casa l'ha visto quello che si è portato via? Non mi pare di aver aperto la valigia e vedere se. No, no, ma a casa cos'è rimasto di suo? In casa sono rimaste tutte le cose. I vestiti. Di quando era qua, certo, una montagna di libri. Ecco, per esempio, proprio i libri. I miei libri li sono portati dietro di casa in casa. Tui libri li ha lasciati lì. I libri dell'università sono tutti qui, anche altri, sì. È stato di testa. Qui è un taglio radicale, un cambio di vita profondo. Sì. Mi viene da pensare che evidentemente un motivo profondo c'è, che voi non sapete, non avete valutato, qualcosa che per lui è stato veramente considerato drastico, non lo so. Forse... Sì, e magari non una cosa sola, ma tante piccole cose, perché come ben sa lei, è, ognuno di noi è diverso, e quindi avessi avuto magari io due figli con i quali mi sarei comportata allo stesso modo. Ah, quindi c'è un fratello, questo non mi aveva detto. No, non ce l'ha, dico se nel caso, no, questo per dire che ognuno di noi ha una percezione particolare, ci sono magari figli con genitori terribili, tra virgolette, e che però non si sognano mai di sparire. Sì, ma tante volte noi pensiamo di essere genitori perfetti, ma in realtà comunque sia c'è qualcosa di quello che noi facciamo che ai nostri figli non va bene. Magari siamo iperprotettivi e a loro non va bene essere iperprotetti. Magari parliamo spesso di loro o li teniamo, come ha detto suo figlio, su un piedistallo e non gli va normalmente di essere glorificati. Vogliono farcela da soli e noi invece li supportiamo in tutto pensando di fare il loro bene. Il succo di tutto quello che può aver passato mio figlio, diciamo, ha accusato mio figlio, ha detto ma non ti sei mai accorta che ho passato la vita a leccarti il culo? Io ho vissuto come non mi sentivo, voglio vivere come mi sento, da stronzo. E quindi... Altro che bello, bravo, buono, intelligente, tutti i 30 lode alla bocca. Evidentemente sarà stufato di fare il figlio di mamma perfetto, questo è il fatto. Ma chi gliel'aveva mai chiesto? Ma perché non ha parlato prima? Ma chi gliel'ha mai chiesto? Però queste cose, anche se probabilmente inconsciamente io le... Guardi, già essere mamma è diverso che essere papà, quindi non posso giudicare. Però molte volte le mamme non si rendono conto che quello che loro fanno per l'amore dei figli, per il benessere dei figli, per il figlio viene considerato una catena. Il figlio si è dovuto staccare dalle catene di una mamma onnipresente, iperprotettiva, dice basta, io voglio vivere al di là del fatto che ogni giorno mia mamma mi dica quanto sono bello, quanto sono bravo, quanto sono perfetto. Certo, quando ho contattato, perché ho trovato per caso questo numero di telefono rimasto unico in una vecchissima agenda dell'ultima, diciamo, ragazza di mio figlio, e chiaramente l'ho chiamata, ci siamo anche viste così. Gli ho detto ma dimmi un po', cercavo di capire da lei che comportamenti aveva Michele, particolarmente riguardo a me o a suo papà. E lei mi diceva guarda, ma così normalmente come tutti, siamo tutti che quando ci troviamo a 20 anni mia mamma mi rompe di qui, quell'altro mi rompe di là. Mi diceva una cosa un po' particolare, e quindi questo era normale. Dice mai più di tanto, insomma, si è lamentato così, e ha detto l'unica cosa che per una ragazza molto ingrata mi sembrava di percepire come se fosse un po' geloso di te, non so come dire. Geloso? Ma sì, è come se lei ha detto questo termine e ho detto ma so che confronto ci poteva essere. Geloso, e se lei non c'ha nemmeno un altro uomo? Uno capisce, la mamma, una mamma che ha una vita brillante, mangiatrice d'uomini, allora un figlio maschio no. Di poi. Ma se non era manco questo, è il tipo lei di questo? No, non sono il tipo di questo, assolutamente no. Che ne so. Però piaccio molto gli uomini, perché io li tratto come mie amiche, cioè sanno, non faccio nessuna differenza, io mi trovo molto a mio agio. Non credo che sia questo. Sì, no. Ma frequentava molti uomini, entravano uomini in casa, c'era un via vai di maschi. No? Ma scherza, guarda. Non so, domando. Chieda alla mia dottoressa che mi dice di togliere le altele, signora, dopo 20 anni. No, assolutamente no. Volevo dirle che proprio. Ha trovato la sua strada, se ne faccia una ragione. Sì, ha dato a un essere umano gli strumenti per ritrovare la sua strada. E se questo... Ed è per questo che non lo cerco, ed è per questo che. Riesco ad andare avanti in modo positivo. Molto buddista la sua scelta, un'altra mamma. Convinta di stare facendo il suo bene, perché io gli voglio bene nel vero senso della parola. Va bene, e lui vive tranquillamente anche senza averla vicino. Di questo dobbiamo farci una ragione, anzi, essere contenti che i nostri figli sono affrancati. Grazie. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Mi arriva un'audiolettera che non vedo l'ora di commentare. Una donna, un uomo, l'immagine riflessa di quella donna nei social network, l'uomo che non tollera che la donna sia ammirata da altri. Caro Gianluca, vedo che spesso parli di social network e di relazioni uomo-donna sul web. Io sto pensando ultimamente che, per come sto messa, l'unica soluzione sia cancellarsi da tutti i social in cui ho un profilo, che poi sono solo due. Mi pare l'unica soluzione rispetto alla spirale di gelosia che si è innescata col mio fidanzato, oltretutto quarantenne. Io ne ho 26. Dico oltretutto quarantenne perché mi sembra che il suo comportamento sia in realtà quello di un sedicenne. Ma forse mi sbaglio io. Tutto è cominciato 10 giorni fa, dopo che mi sono fatta scattare delle foto da un amico fotografo nel suo studio. Si tratta di alcuni ritratti e scatti a figura intera in cui mi sono divertita per una volta a truccarmi e vestirmi come volevo. Quando al mio fidanzato ho detto che avrei voluto fare questo servizio fotografico, lui ha subito approvato e mi ha detto che non vedeva l'ora di ammirare le foto. Il suo atteggiamento è cambiato però dopo che ho deciso di pubblicare qualcuna di queste foto su Facebook e su Instagram. Preciso che non sono foto glamour in cui appaio spogliata, sono semplicemente foto in cui sicuramente posso apparire più donna che in quelle fatte sul luogo di lavoro o in giro. Insomma, le foto hanno avuto grande successo, ho ricevuto tantissimi like e commenti entusiasti da amici e amici di amici. Naturalmente mi sono anche arrivati messaggi in privato di maschi che ci vogliono provare in modo spudorato. Io, non avendo nulla da nascondere, li ho anche letti al mio fidanzato. Ma più che di questi messaggi espliciti, lui ha cominciato a ingelosirsi dei like e dei commenti pubblici alle mie foto. In pratica, ha cominciato a vedere il profilo di tutti i commentatori maschi che mi hanno messo un like. Decine e decine di profili che lui ha cominciato a monitorare e controllare a tutte le ore. Appena vede che un uomo mi mette un like, subito vedo che lo fa anche lui, come a segnare il territorio. Io poi nel mio profilo ho scritto che sono impegnata in una relazione, quindi non mi può accusare di niente. Ora però mi chiede di postare foto in cui noi due siamo insieme abbracciati e che fanno capire che siamo fidanzati. Tra l'altro alcune di queste foto ce le ho già nella mia gallery, quindi che vuole da me? Ahimè, mi sembra più che logico e più che chiaro. Se ancora l'ascoltatrice non se n'era accorta, è bene che se lo fissi bene in testa. Ogni uomo, nel suo più profondo animo retrogrado e primitivo, vorrebbe essere l'unico tenutario di un grande harem, dove stanno tutte le donne a sua completa disposizione, a sua completa adorazione, senza nessun altro uomo che provi soltanto a poggiare gli occhi addosso a loro. Poi l'uomo si civilizza, poi l'uomo assume atteggiamenti che vanno contro la sua più profonda e belluina natura, poi l'uomo fa il simpatico, poi l'uomo fa il moderno, poi l'uomo fa l'aperto. Ma quando vede sbavare altri uomini sulle foto artistiche, sicuramente non indecente, la propria donna, chiaramente riprende in mano la clava e cerca di definire il suo territorio. E ora mi tocca assorbire dei mini interrogatori in cui lui mi fa i nomi dei miei amici di Facebook o Instagram, chiedendomi perché sono miei amici, se mi hanno mai scritto in privato e così via. Poi a quelli che secondo lui hanno la faccia più da piacioni mi chiede di togliere l'amicizia o di bloccarli. In pratica per lui sui social dovrei solo avere amici maschi d'infanzia, ex compagni di classe, colleghi di lavoro di vecchia data che lui conosce personalmente. Mi pento di aver pubblicato queste foto, ma a questo punto mi chiedo, se uno nei social network non può nemmeno divertirsi a giocare con la propria immagine, che ci sta a fare? Cara mia, hai perfettamente ragione. Nei social network non è che ci si sta così per passare il tempo soltanto. Ci si sta per fare una profonda, radicale e innovativa operazione di marketing sulla propria persona. Noi nei social network ci mettiamo in vendita. Ma non è detto che la vendita sia qualcosa di così brutale come qualcuno che acquista una merce sul banco di un supermercato. Ma comunque noi confezioniamo al meglio la nostra immagine perché il mondo si accorga di noi, perché il mondo ci accolga, perché il mondo ci apprezzi, perché il mondo ci veda come noi non siamo ma come vorremmo essere. Quindi lei è andata a farsi delle foto da un probabilmente famosissimo, illustre, eccelso fotografo, un grande nome della fotografia italiana, e quindi sono venute le foto di una donna talmente bella e talmente desiderabile che nulla a che fare probabilmente con la sua immagine quotidiana, ma è qualcos'altro di lei che lei pensa che comunque le appartenga, e l'ha messo in vendita, o perlomeno l'ha esposto nel grande supermercato. Il suo fidanzato se n'è accorto e probabilmente non gli fa molto piacere di vedere la donna che lui ama, o con cui comunque divide momenti affettivi, in vendita sui banconi di un supermercato.